Elektro, Renault, Peugeot, Fiat, Lamborghini, Mazda, Toyota, Kia, Skoda, Volvo, Seat, Cupra, Volkswagen, Mercedes, Hyundai, Ford, Lincoln Go, MG. Tiene la nacia. Ok ragazzo, adesso cerchiamo di farlo bene. Ricordati che se io li dico un marchio, ad esempio Renault, dovete fare una mossa a caso. E fate attenzione al finale MG, perché dobbiamo saltare per tre volte. Fatelo bene, marchio gioca. Renault, Peugeot, Fiat, Lamborghini, Mazda, Toyota, Kia, Skoda, Volvo, Seat, Cupra, Volkswagen, Mercedes, Hyundai, Ford, Lincoln Co. Più veloce, perché i comandi cambiano due volte. Se riuscirete a fare le mosse di tutte le aziende, da lì in poi potete giocare solo con la musica, perché voi sarete il campione di marchio gioca. Mozqua riprende il beat, accelera. Renault, Peugeot, Fiat, Lamborghini, Mazda,